Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Terza puntata. Poi il gran Lombardo raccontò di sé. Veniva da Messina, dove si era fatto visitare da uno specialista per una sua speciale malattia dei reni, e tornava a casa. A Leonforte, era di Leonforte, su nel Valdemone tra Enna e Nicosia. Era un padrone di terre con tre belle figlie femmine, così disse. Tre belle figlie femmine. E aveva un cavallo sul quale andava per le sue terre. E allora credeva, tanto quel cavallo era alto e fiero, allora credeva di essere un re. Ma non gli pareva che tutto fosse lì, credersi un re quando montava a cavallo. E avrebbe voluto acquistare un'altra cognizione, così disse, acquistare un'altra cognizione e sentirsi diverso, con qualcosa di nuovo nell'anima. Avrebbe dato tutto quello che possedeva, e il cavallo anche, le terre, pur di sentirsi più in pace con gli uomini, come uno, così disse, come uno che non ha nulla da rimproverarsi. Non perché io abbia qualcosa di particolare da rimproverarmi, disse, niente affatto. E nemmeno parlo in senso di sacrestia. Ma non mi sembra di essere in pace con gli uomini. Avrebbe voluto avere una coscienza fresca, così disse, fresca. E che gli chiedesse da compiere altri doveri, non i soliti, altri, dei nuovi doveri, e più alti, verso gli uomini. Perché a compiere i soliti non c'era soddisfazione, e si restava come se non si fosse fatto nulla, scontenti di sé, delusi. Credo che l'uomo sia maturo per altro, disse. Non soltanto per non rubare, non uccidere, eccetera, e per essere buon cittadino. Credo che sia maturo per altro, per nuovi, per altri doveri. È questo che si sente. Io credo alla mancanza di altri doveri, altre cose da compiere, cose da fare per la nostra coscienza in un senso nuovo. Tacque e parlò il catanese. Sì, signore, disse. E si guardava le punte enormi delle scarpe. «Sì», disse, «credo che abbiate ragione». E si guardava le scarpe, sanguigno, pieno di salute, ma con una tristezza di vigoroso animale, insoddisfatto, cavallo o bove, e di nuovo disse «sì», convinto, persuaso, come se gli avessero dato un nome per una sua malattia, e non altro disse, non raccontò di sé, e solo soggiunse, chiese «siete un professore, voi?» «Io, professore!» il gran Lombardo esclamò. E il vecchietto al fianco di lui fece udire il suo di foglia secca, senza corpo di voce. Pareva fosse un secco fuscello a parlare. Fece per due volte. E aveva gli occhi aguzzi, formicolanti di riso nel faccino coriaceo e scuro, come un guscio secco di tartaruga. Fece con la bocca a fessura di salvadanaio. «Non c'è nulla da ridere, nonnino. Non c'è nulla da ridere», disse voltandosi verso di lui il gran Lombardo. E di nuovo raccontò di sé da capo, del suo viaggio a Messina, dei suoi poderi sopra Leonforte, delle sue tre figlie femmine, una più bella dell'altra, così disse stavolta, «una più bella dell'altra», e del suo cavallo alto e fiero, e di sé che non si sentiva in pace con gli uomini e di come credeva che ci volesse una nuova coscienza e nuovi doveri da compiere per sentirsi più in pace con gli uomini. Tutto esclusivamente stavolta per il piccolo vecchio che lo guardava, rideva e faceva un rumore di fischio incipiente, senza corpo di voce. «Ma perché?» disse il gran Lombardo a un certo punto. «Perché state seduto così scomodo? Questo si può sollevare». e sollevò il bracciolo di legno contro il quale il piccolo vecchio sedeva in punta al sedile. «Questo si può sollevare», disse il gran lombardo. E il piccolo vecchio si girò e guardò il bracciolo di legno sollevato e fece di nuovo un paio di volte, ma restò seduto scomodo, in punta, tenendosi con le manine coriacee a un suo bastone di legno nodoso e alto quasi come lui, dal pomo a testa di serpe. Fu in quel momento di girarsi a guardare il bracciolo che io vidi la testa di serpe, e allora vidi del verde in bocca a quella testa di serpe, tre foglioline di un rametto di arancio, e il piccolo vecchio mi vide e feci di nuovo e prese il rametto d'arancio e se lo mise in bocca lui, nella sua bocca a fessura di salvadanaio, testa di serpe anche lui. «Ah, io credo che sia proprio questo», disse il gran lombardo, parlando ora a tutti in generale. «Non proviamo più soddisfazione a compiere il nostro dovere, i nostri doveri. Compierli ci è indifferente, restiamo male lo stesso. E io credo che sia proprio per questo, perché sono doveri troppo vecchi e divenuti troppo facili, senza più significato per la coscienza». «Ma davvero non siete professore, voi?» disse il catanese. Era sanguigno, un bove, e con tristezza da bove si guardava pur sempre le scarpe. «Io, professore», disse il gran lombardo, «ho l'aria di un professore. Non sono un ignorante. Posso leggere un libro se voglio, ma non sono un professore. Fui dai salesiani, ragazzo, ma non sono un professore». Così arrivammo all'ultima stazione, prima di Catania, già nei sobborghi della grande città di Pietranera, e il vecchietto che faceva come un fuscello secco scese. E poi arrivammo a Catania. C'era sole nelle strade di Pietranera che passavano, strade e case, Pietranera, a picco sotto il treno, e arrivammo nella stazione di Catania. E il catanese scese, e anche il gran lombardo scese, e affacciatomi al finestrino, vidi che anche coi baffi e senza baffi erano scesi. Tutto il treno, insomma, scese. E il viaggio proseguì con le sole vetture vuote al sole. E io mi domandai perché non fossi sceso anch'io. Avevo ad ogni modo il biglietto per Siracusa. Proseguì il viaggio nella vettura vuota, al sole, attraverso una pianura vuota. E dal corridoio, ritornando nello scompartimento, fui sorpreso di trovare, fermo al suo posto, avvolto nello scialle col sottile berretto di panno in testa, il giovane dalla cera gialla di malato. E con lui, guardando lui che mi guardava, senza una parola ma contento di stare con lui, viaggiai e viaggiai al sole per la pianura vuota, finché la pianura si coprì di verde malaria e si giunse a Lentini, a piè di lunghi declivi verdi di aranci e malaria. E il giovane, avvolto nello scialle, scese e intirizzì di freddo al sole sul marciapiede deserto, scarno di malaria. Così fui solo, e la campagna fu di rocce verso Siracusa in riva al mare, ma poi alzai gli occhi e fuori vidi senza baffi, fermo, in piedi, nel corridoio che mi guardava. Egli mi sorrise. Stava nel corridoio con le spalle al sole, e la campagna di roccia e il mare dietro le spalle, ed eravamo noi due, io e lui, in tutta la vettura, forse in tutto il treno, nella corsa per la campagna vuota. Mi sorrise con la sua faccia da fumatore di sigari, senza baffi, e grosso nel cappotto color melanzana, il cappello color melanzana. Entrò, si mise a sedere. «Mi permettete, vero?» disse quando si fu seduto. «Per bacco», io risposi. «Come no?» E lui fu contento di poter restare seduto col permesso mio, contento non già del fatto in sé di sedere, c'era tutta una vettura per sedere, ma del fatto di sedere là, dove ero io, un altro, un uomo. «Mi pareva di avervi visto scendere a Catania», io osservai. «Ah, mi avete visto», disse lui contento. «Ma ho accompagnato un mio amico al treno di Caltanissetta. Sono risalito all'ultimo minuto». «Ecco, ecco», dissi io. «Sono risalito dall'ultima vettura». «Ecco, ecco», dissi io. «Ho appena fatto in tempo». «Ecco, ecco», dissi io. «E c'era una vettura di prima e seconda in mezzo», disse lui. «E mi è toccato restare laggiù, lontano dalle mie valigie». E io dissi: «Ecco, ecco». Ma Allentini sono sceso e venuto qua, disse lui, e io di nuovo dissi, ecco, ecco. E lui non disse altro. Restò un momento zitto, contento, soddisfatto di avere tutto spiegato. Poi sospirò, sorrise e disse, ero preoccupato per le valigie. Già, dissi io, non si sa mai. Vero, eh? Lui disse, non si sa mai, con questi brutti tipi che girano. Già, dissi io, con questi brutti tipi, come quello che è sceso a Lentini, disse lui. Lo avete visto? Chi? Dissi io. Quello imbacuccato? Sì, disse lui, quello imbacuccato. Non aveva una faccia da delinquente. Non risposi io. Ed egli sospirò. Si guardò attorno, lesse tutte le targhette di smalto dello scompartimento e guardò la campagna vuota, curva, veloce e uguale di brulla roccia lungo il mare. E poi sorrise e infine disse, «Sono un impiegato del catasto!» «Oh!» dissi io. «Davvero!» «E cosa fate? Andate in licenza a casa?» «Sì!» lui rispose. «Vado in permesso. Vado a Sciacca, al paese.» «A Sciacca!» io dissi. «E venite da lontano?» «Da Bologna!» lui rispose. «Sono lì impiegato. E mia moglie è bolognese. E i miei figli pure.» Era contento. E io dissi, «E andate a Sciacca di qua?» «Sì, di qua», disse lui. «Siracusa, Spaccaforno, Modica, Genisi, Donna Fugata, Vittoria, Falconara», io dissi, «Licata». «Ah!» lui disse, «Girgenti!» «Agrigento, prego», dissi io. «Ma se proseguivate per Caltanissetta non vi conveniva?» «Già, mi conveniva», disse lui, «e mi risparmiavo 8 lire. Però di qua è sempre lungo il mare. Vi piace il mare?» io gli chiesi. «Non so», rispose lui. «Credo che mi piaccia. Ad ogni modo la linea mi piace.» E sospirò e sorrise. Poi si alzò e disse, «Permettete?» Andò allo scompartimento vicino e tornò con un piccolo paniere da merenda per ragazzi, ma di fibra, e se lo mise sulle ginocchia, le sue corte gambe. Lo aprì, ne prese fuori del pane e sorrise. «Pane!» disse. Poi prese fuori una lunga frittata e di nuovo sorrise. «Pesce d'uovo!» disse. Io gli sorrisi in risposta e lui con un temperino tagliò il pesce d'uovo in 2 pezzi. Me ne offrì un pezzo. «Oh, grazie!» io dissi, schermendomi dalla sua mano armata di pesce d'uovo. Egli si oscurò. «Come?» disse. «Non volete accettare?» «Non ho fame», io dissi. E lui, «non avete fame. Viaggiando si ha sempre fame». E io, «ma non è nemmeno il tocco ancora. A Siracusa mangerò». E lui, «bene, cominciate ora. A Siracusa continuerete». E io, «ma è impossibile. Mi guasterei l'appetito». E lui sempre più si oscurava, insisteva. «Oh, sono impiegato al catasto», disse di nuovo. E disse, «Non mi fate questo torto, tanto per accettare». Accettai e mangiai con lui il pesce d'uovo e lui fu felice. E io in qualche modo lo fui pure, contento in qualche modo di contentare lui, masticando pesce d'uovo e sporcandomi di pesce d'uovo le mani come lui. E intanto era passata Augusta col suo monte di morte case in mezzo al mare, tra velivoli e navi e tra saline, sotto il sole, e si avvicinava a Siracusa. Si viaggiava per la campagna vuota lungo il mare di Siracusa. «Mangerete con più appetito a Siracusa», egli disse, e soggiunse, «Vi fermate lì?» «Mi fermo lì», io risposi. «Risiedete lì?» disse lui. «No», io risposi, «non risiedo lì». «Ma non avete nessuno a Siracusa?» disse lui. «No», io risposi. «Ci andate per affari, allora?» egli disse. «No», io risposi. «No». E lì mi guardò disorientato, mangiando pesce d'uovo, guardandomi mangiare il suo pesce d'uovo, e io dissi, «Avete una bella voce di baritono, voi!» Subito egli arrossì. «Oh!» disse. «Perché? Non lo sapevate?» disse io. «Oh, quanto a saperlo lo so!» egli disse, rosso e contento. E io dissi, «Naturalmente, non potevate essere vissuto sinora senza saperlo. Peccato che vi siate impiegato al catasto invece di cantare. Già, egli disse, mi sarebbe piaciuto, nel Falstaff, nel Rigoletto, su tutti i palcoscenici d'Europa, o anche per le strade, che importa, sempre meglio di fare l'impiegato, dissi io. Oh sì, forse, egli disse. E tacque, un po' sconcertato, e restò in silenzio, masticando, e dietro la curva della campagna di roccia apparve, contro il mare, la roccia del Duomo di Siracusa. «Eccoci a Siracusa», io dissi. Egli mi guardò e sorrise. «Così siete arrivato», osservò. Ci salutammo, il treno entrò in stazione. «Credo di trovare subito pronta la coincidenza», egli disse. E io scesi a Siracusa, il posto dove ero nato e di dove 15 anni prima ero partito, una mia stazione nella vita. Di nuovo, scendendo le sue valigie, l'uomo sedicente impiegato del catasto, insomma, senza baffi, mi salutò. «Arrivederci», mi disse. «Ma che farete a Siracusa?» Io ero già lontano abbastanza per non rispondergli, e non gli risposi, e mi allontanai verso l'uscita e non lo vidi più. E fui a Siracusa. Ma che avrei fatto a Siracusa? Perché ero venuto a Siracusa? Perché avevo preso il biglietto proprio per Siracusa e non per altrove? Certo mi era stato indifferente per dove prenderlo, e certo essere a Siracusa o altrove mi era indifferente, era per me lo stesso. Ero in Sicilia, visitavo la Sicilia e potevo anche risalire in treno e tornare a casa. Ma avevo conosciuto l'uomo dalle arance, coi baffi e senza baffi, il gran lombardo, il catanese, il piccolo vecchio dalla voce di fuscello secco, il giovane malarico avvolto nello scialle. E mi parve che non mi era forse indifferente essere a Siracusa o altrove. «Che scemo!» mi dissi. «Perché non andavo a vedere mia madre, invece, con gli stessi soldi, lo stesso tempo, nelle montagne?» E mi trovai in mano la cartolina non impostata di auguri per mia madre. Pensai che era il giorno 8. «Accidenti», pensai. «Povera vecchia, se non gliela porto io stesso non le arriva più entro la giornata». E andai alla stazione delle ferrovie secondarie a sentire se mi bastavano i soldi per continuare il viaggio fino da mia madre, nelle montagne. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.